che ci artisca i puntetti, perfetto, fa posto qua. Perché c'è anche tu nel problema? Vediamo un po'. C'è bastardo, anche c'è un problema con quello che sto chiedendo. Pugliato la pagina di Facebook. Aspetta, abbassino un po'. Ecco qua, pochettino abbassato. No, ma ne ha per tutto. La pagina di Facebook. Quando tu su Google scrivi, metti la F, poi ti dà Facebook, clicchi su Facebook, se non tra l'app vuol dire un problema di internet. Come stai facendo? Metto l'app, non lo so. Ma come stai parlando? Tutto la mano l'app, e anche velocemente. Non lo so, è un problema di zona. Cioè, sia la mia o la di Sonia, che le attività vecchie sono in Sardegna. Comunque c'è casino perché mi hanno mandato le mail, c'è un po' di tensione in basso, io qua c'ho il volumetro e ci sono 209 volts anziché 220. Vabbè, ma è proprio la ricorrente, non ho io qua. Strano, cazzo, non va per lui, no. No, come funziona tutto? Già la terza volta si è trovata ragione sul computer. Fortunatamente ci vuole l'unità di protezione, se no l'hai avventato. Ma vai, tu le prendi. Fatemi andare a me davanti mio, perché non io voglio parlare. Kappa. Io sono come siete te. C'è una stanchezza che ne va in quattro qui. Ecco. Stanno già iniziando a rompere le balle, ma non mi fa niente comunque. Si sente un wiu. Sono proprio un magneto. Non fa niente. Devi aumentare un me. Sì, segnale 9-10, sì, basso. Aumenta. Sì. Non passa la grande, guardi. Non passa la grande, non ci stanno problemi. Vuoi fatto con la bici, siamo con bici un tempo. Kappa. Guarda, non dava sì, per carità. Oh, io mi... sì, mi sono capo di Puma, si è agito. Ma che lì qua che avanzando? Ah, sono nello spunto qua, io lo disinfetto. No, è pizzino, no, c'è un umano. Per carità. Oi. Ma io ho sempre detto una cosa, fate l'amore, non fate la guerra. Sì, ma c'è anche qualcuno che non... cioè, non aveva niente da fare. Cioè, non aveva fatto l'imbrito, non aveva fatto prima. Non disturba nessuno, le date sono mai detto di niente. Non sta disturbando proprio nessuno, capito? Il comico non esiste. È 9:10 qua, tu sei 9:30 e Fabrizio 9:50, quindi che problema c'è? Sì, infatti, no, vabbè, io sto per dire qualcosa qua, capito? Pappa, oh via! Questa la fa, non la fa la pagina, porco Giuda. Ma se vuoi ha aperto la stanza, Sonia, fa la presenza, c'è una gana, c'è da dentro. Allora, nella sua portata? La sua stanza, il codice lo sai, se sta scritto, se vuoi entrare là, chi lo c'ha? Ma vogliamo, vogliamo. Troppo male va a letto, che domani si trabacca e voglio arrivare tranquillo. Sono in pigiama, mai, sono in pigiama, io sono in pigiama, sono a pezzi, sono tosse, ho un po' di rabbia, prima la tosse, ma di nuovo adesso lancio il naso. Il tempo sta iniziando a cambiare. Boh. E vabbè, tutto. Comunque, è stata che entro, va? Ecco qua, in quattro siamo. Io, Antonia, Sonia e Silvana. Cappa, vai, qualche. Riprendi. La vai a fare dopo? No, sono qua. Non sto scherzando. Vai tranquillo, non c'è problema. Vabbò. Rioia. E che ci vogliamo qua? E avanti, Gaudi. E infatti, cosa ci vuoi fare? Non ve la valutano più. Io manco ci penso, manco mi arrivo più tra gente, non mi ha fatto venuto. Quando non mi disturba, non me la fatto nulla. Perdono solo tempo perché non è facile disturbare da qua, quindi perdono solo tempo e basta. Vabbè, la trucca mi arrivi anche, mi arrivi a... in via Pascoli, vi guardi, ci sono avanti. La sa perderà. Pesati, so. Sono pesati. Che cosa è successo qua? Tu, Bogito, non ti va, ti ha detto il bar, non mi arrivi, tanto mi arrivi in via Pascoli. Boh. Ehi, vabbè. Quindi era tempo l'acqua, viste, si è rassegnato, non si sente più. Cosa me ne affittiamo? Perché un po' rompe le palle, non... Che gusto ci prende? Ma è la cosa non pagata, se mi bagani, la buco pure la portata, però mi devi bagare. Ma lascia per te. Sono convinti che... che possiamo fare qualcosa, ma... quando si accorgono i signori non fare di nulla, per questo la gente aumenta la potenza a fare, che sono già io si tratta in un baracchino tu. Tanto io pompa a bocco sulla radio, c'è una 30 qua, con picchi positivi a 35 e sono abbastanza distante da te, solo che io sono sono sotto, e sono sotto. Che me lo abbiamo tu a qua, io quindi immagino già di miglio pieno, se mi metto bonito qua. Lampa di manto lampa. Tu sei, 9,30 a picchi positivi. Come sei tu? A 9,30 a picchi positivi sei tu, quindi. E 9,30 io. E io dico al monte. Ma non c'è nessun problema. Devo mangiare ancora molto formaggio, parecchio formaggio devo mangiare. Guarda tu. Ehi, parecchio formaggio e pare tu sono bene a mangiare. Pare tu sono bene. Qua è 9,10. Con questo qui lo sale scende, ma non mi fa niente la vetta, solo l'avevi detto. Non mi fa niente. Ehi, vabbè. Non abbiamo niente da fare qua. Insomma ti dico, lo ignoriamo, solo lo sai, no? Qua, un tassino, lo iranda e puntiamo sopra, lo giocio. Forse è quello il problema, rimango qua, ti ho detto io, manco lo sento, proprio zero, sto zero. È completamente assente da parte mia, va. Togliteci 9, quasi 9,40, quindi. E da 9,10, Antonio 9,50, andiamo là. Si può fare un modo di gigio. Che se la vai, vuoi buona portata, così. Così deboli. Se ci vuole buona portata, ne vuole di poco scendere a 9. Comunque, Antonio, organizzati un apparecchietto famoso. Diciamo, là, sono tranquilli e sereni, pulito, pulito. Che arrivi anche qua, organizzati. No, c'è problema, già vagava. Un guadino io devo fare. Guadino giù, basta un va, e c'è lì. Ma poi già arriva 9,20, non faccio una tessi. E ho mettiamo un colpo a 100. Adesso di più è salito. Sì, sì. Ma non va bene come prima, tra. Tranquillo, una scienchivia. Va bene anche di Silvat, un bacio tranquillamente. Con la scienchivia, fa la bufala alla radio. Io qua sono, eh? 40 watt. E io sono a 50. Adesso lo metto a 30, sì. Eccolo qua. La mettiamo a 30 watt. Vai, Anto. Ciao, capa. Io sono più piccolo, eh. Sono a 1,5 watt. No, adesso uso, li uso da qua, di meno di watt. Uso 10 watt adesso, va? Vabbè. A Roma stati in chimia a rompersi la pelle male. Guarda, ti vedo di bianco, riprendi qualche. Ehi, quanto devo mettere io sono lì. Appena appunto il microfono. Ti metti buono per figare, riusci a fare uno come se la banda la giamba la chimia sopra brutto. Usci come stanno a abbattere la giamba, pocaletta. Oh, sei già fortissimo così, eh. Immagina se delle buone sciabicche a giotto. Ehi, infatti. Sono pesante. Mi piace giocare col dittino, convinti che fanno del male, ma mi sa che proprio non passano, venuta da là. Non c'è niente da fare. Per favore, mare ci vuole zona e radio. Quanto è una tragedia, no? sono affari scemi così. Non ci vuole. E come ti dicevo, la competizione in una pista tra la Zincozente e la Mercedes, c'è un'altra cosa. Secondo me perché mi vorrete del bada, pare così me, ma se penso io. Se mai niente, corrente e basta. E ma infatti, adesso lo voglio orare e basta. Non ha niente a che fare con noi. Per lo meno, né con me né con te né con lui non ha niente a che fare. Può giocare con gli altri, ma ha toccato male. Penso a te, ma c'è nell'altro in quello grande. Ci vuole il programma sportivo in questo piccolo di cavetta. La matta che tiene l'aria. Ora qui devo andare che scagli. Io è partito con una certa cifra, da poi ha cominciato a aumentare, mi ha detto, lei fa una cosa, sacca tutta io, sacca tutta, ma gli ci vuole capo un tico. Perché ci provano, prima ti fanno un contratto, poi te lo fanno un altro, e alla fine, capito? Cioè, ad esempio, ma scendo, mi intendi? Ma io ce l'ho, l'avevo preso già fatto il pacchetto delle partite, però da una parte funziona e sapevo quando funziona, l'altra stanza funziona, capo tu la scheda era Mattesi. Ma non c'è problemi di antenna, magari quella camera lì. No, tu quelli c'hai i partitori, c'è la centralina nel salone e poi c'hai i partitori in tutte le stanze, come tiscali, no? Come tiscali. Io questo lo posso portare anche in un'altra stanza, è collegato su tre stanze, anche perché il modem è nella linea diretta del partitore, quindi. Vabbè, ci abbiglia il culo. Dopo vado e me lo seguo nel salone, tanto mia figlia esce alle 10 anche oggi, quindi devo aspettare per forza che esca lì dal lavoro, poi mi chiudo tutto e mi seguo. C'è la televisione anche, televisione grande, c'è un salone, è di quel pacchetto lì. Ah, già, la televisione, ma in televisione non c'è niente, in poche parole. No, c'è su 7 Gold, la telecronaca, la telecronaca di tutto. Pensavo ci fosse Rai 2, quelli del calcio, invece non c'è. Non c'è, e quindi niente. Andare. E io già, povera ragazza, la battaglia è venuta. Uia, sa che sei addosso per carità. Uia, e domani è dura, domani, dopo domani è ancora più tussa. Come stai dicendo tu? Quello sta. questo è RTG. Questo è la gallura. Questo chi è? Vediamo se c'è qualcosa qua. No. No, non c'è niente, no. Non aggancia. Vai HD. Extra. Premium. Eccolo qua. Premium. Ma premium è un film. Non aggancia. No. No, negativo. Potrebbe essere anche difettoso il televisore, non è detto, non è detto. No, c'è. Ma non credo comunque, e questo ha sempre funzionato. Vediamo qua, c'è nella Sardegna, Toscana, niente, info channel TV, no, non aggancia, non segnale, non c'è segnale, è successo qualcosa. Sì, c'è stato successo qualche difetto ripetitore e la roba è scappata. Sicuramente sì, sì, non mi accuso, dopo me lo guardo, non fa niente. Yeah. sì, ma no, io qui la cosa che mi sta preoccupando domani è a stare girando in macchina adesso a sinistra, perché pure quando sto cercando di annotendo e mi scia le balle. Per carità, cosa ci vogliamo fa? Cosa ci vogliamo fa? Ma come mai non ti accusi che stai solo perdendo del tempo che siamo a 50 metri uno dall'altro? Ma chi non ha detto in picchi adesso? Ah, in picchi dove vai? E poi cognati cazzo, siamo a 50 metri uno dall'altro e stai anch'io bisogno di tempo, vai e fate il giro, vai. Dipende a tu. È convinto, è un bel convinto. Io vi faccio le date. Io no, tanto. Non si è fatto un bello, cosa. E la portate buona. La portate poi da il servito mappa e pulsa. Non vuoi quando muori senti questo ti mi cazzo era proprio un marco di cabello aveva sì analfabeta sicuramente uno coraggio giù che siamo a 50 metri è poi importante wow. Fate un calucca che a monte via via vabbè hanno l'handicappata vuol dire ha tempo da cliccare magari non è dove può andare a portante è rovino sì sì beh senz'altro sì è come si usa dire no l'acqua fa male il vino fa cantare guardi cosa è uno qua ma meglio voluto dire però per fare capire sta solo prendendo il tempo quindi per il resto non mi riguarda più di tanto non ho altro da aggiungere peggio di tu no non ho più parole per fare questi discorsi uia no io domani faccio anche questi campionamenti te l'ho detto giù la galleria a Monteoro sotto mi pare sia 8 metri sotto il livello dell'impianto 4 e 4 8 e più di 2 piani sotto questo è un freddo cazzo mamma mia e l'altra qua in via Milano stesso ma questa è 6 metri sotto il livello stradale della galleria dove sono i tubi e siccome lì ci sono i rubinetti di prelievo volevo fare questo quello è il trucco reale poi domani siamo in tre i miei due colleghi e faccio fare la zona di Montella a corte tra Sardone che io manco per basso domani e ci vengono a tempo i quattro campionati e mi vengono a casa pure beh certo sì se non sente male no è meglio che sì fai completamente ve lo dico guarda che non mi sento e non mi sono andato a casa non sta senza d'altronde non sta bene se non sta bene non sta bene basta tutta questa lì andare a lavorare lo so magari non è il caso tuo magari ti ha più fastidio stare fermo che travagliare ma è purtroppo che si lo fa quando non si sta bene non si sta bene è venuta la con tutta la buona volontà che uno ha ma purtroppo è così è così quando sta male basta ma la cosa mi gira male che sabato ci abbiamo questa partita e non voglio mancare capito quindi mamma ci vuole un'altra bacchiglia ma da sono già ieri così sono io gli ho peggiorato forse che sono uscito ma c'avevo cose da fare stamattina prima sono uscito con giubbotto leggero e stifo poi veniamo tolto perché c'era caldo ero in camicia Tomazzani chi via là l'ufficio delle entrate perciò devo aver peggiorato per quello poi niente e devo per forza abbattere sennò è un casino sennò sono sabato un po' c'è anche andare a questa lavorazione. O magari a Mucudiardi devo andare per forza. Se non puoi farne a meno, giustamente bisogna andare, se non si può fare a meno. Se appagnappa, così. No, sto bene a fare una cosa. Si è cercato, sì. Insomma, è meglio dire la cosa. Cosa? I muoi che vado disturbati, ma sono riusciti attaccati. Non ti basso ancora un metto, figurati se ti basso letto. Boh. Che schifo che sei. No, io vado a batterlo, ma sono appena viene l'aria. Che lei ce li ha, perché anche lì non stava molto bene, batte la magia che ho già due le. Faccio una due pastiglie. Dopo. E via. Quella per lavoro l'ho già preso a pranzo. Stanotte mi prendo un Actifed. Che è un antinfiammatorio generale. Un bel tazzone di cosa calda e mi frigo. Poi domani mattina si vedrà cosa fare. Sì. Basta un bel bicchiere di latte caldo. Un bel bicchiere di latte caldo. Ci metti un cucchiaino di miele, se c'è, e vedrai che domani mattina si un angelo, capito? Che il miele aiuta subito a aiutarti a mal di gola e a prendere anche gli artigli. Gava, gava. Ehi, ehi. No, buona cosa di Migio Arbal, che no, io non ce l'avevo niente. Io non ce l'avevo niente. Stamattina, sì, ieri un pochino, questa tosse, un po' infatti te l'ho detto, tu metti una parte di sigaretta, non una sigaretta, è proprio qualche colpo d'aria che ho preso, qualche colpo d'aria, sino dalla Clavì, dall'altro giorno, che mi ha tolto la maglietta, quando che sono andato a cinare. Settimana scorsa, me la metto. Sì, la settimana scorsa. Sì, ma senz'altro magari di caldo ti sei tolto magari la maglietta, cioè ho qualche golfino che avevi e lì ti ha fregato. Lì senz'altro è un colpo d'aria che tu hai preso. Colpo d'aria magari ti sei reso conto nell'attimo e poi ha accumulato, ma è meglio che sfoghi esterno, è meglio che sfoghi esternamente, perché internamente è più tosta. Poi ci sono, scusate, mi sono sentato un po', mi stava pensando alla vita, sognato, metto una sonda, metti, la mia giugata dura, va? Ma ancora vedi il suacco, già c'è, ma con quel barocchino non ti fa niente. Non mi fa niente, ma vabbè, diciamo magari a me un po', poco, ma così la sentirai sotto, no? Quel pipipipi. Però a te a pacchetto, cosa mi fa? Non sei mai della Bologna, che pezzo di ma manco a te fa niente neanche col baracchino, manco lo sento io, se non mi apro manco lo squarci. Basta. È un po' obiettivo. c'era una gelosia, gatto, da lei tagliando a freccia. Allora, uno più uno fa due in casa mia, no, uno più uno fa due. Non è portante di Sassari questa qua, mi gioco le balle, non è portante di Sassari, ma di tu butto, ciò chi è, al 90%. Ehi, gioco, non è portante di Sassari, ma non ha niente a che fare, non l'ho capito, cioè non... Non può fracassarmi le barre, devo dire la scuola ci serrato, poi non ti dia niente, anche tu BBB. Capito? Cioè, 9.50 Antonio, cazzo, ma non ce n'è per nessuno, tu c'è 9.30, io con 9.10, e 9 più 10. Io siccome non mi esprimo, quindi non me ne fotte un cazzo, però dico, ma perché stai lì a rompere le palle? Vai, dimmi, cazzo, mamma mia. Adesso guarda pure la bicicletta. Ma poco la BD, noi ma stessi, poco una avemmo, vabbè, avemmo ma stessi, fatto di due chiacchiere, con il tresto. Vabbè, noi aia, ma io dico, ma che cosa ci prende? Ci ha sapeso il gusto, ma cosa? Boh, ma vabbè. Sai, andiamo di passo da qua. Sono sicuro che ho una cosa che dico io. Ma che paese? Non è un paese. Già, se ci vogliamo affrontare non c'è problema, Dici, ma la frequenza? Tanto che rivia la prima delle frequenze di guidare, così non sanno niente, ne andiamo e se abbiamo in culo. Ci spostiamo tra di noi, noi tre e via. Ci facciamo due chiacchie, rivia la prima delle frequenze, Antonio. Ma potete rispostare, ma potete rispostare, non cocca un bolo a nessuno, potete rispostare. Già stiamo dando troppa importanza, cazzo io. Quindi, esitta, allora temo, e squolcio, e si ammazzo. Mi ha fatto io sentire questo bippi sotto, capite? Quando non parlate, mi cade un po' più di bippi. Giramento del ballo, riprendete. Ma è così, no? Oh, va a segnalare, oh. Tanto tu passi, Claudio, e Luca passa, e signoriamo, siamo lì a cambiare canale, a fare, boom, e dai, troppa importanza. Continuiamo il nostro QSO tranquilli e sereni, senza tutti i mozzini, dai, non è che... perché lui si lascia di lì, io guardo Bobo Square, se non tengo nulla, tengo a te, Claudio, tengo a Luca, boh, no. Non te, non è qui per le poco. Scendi per un bar, la mi stai scendi. Una cosa mi stai scendi. Non fai capire l'umma più verso il coratore. Ehi, vabbè, già. Non ti preoccupare. La frutti di. Già ne parliamo di persona. Sì, si fu, questo spaccherebbe. Sì, si fu. Veramente lo schifo, eh. Io non posso avere il tempo con passione che sono tutti andati attaccati. Allora che vai di mettere quando c'è gente di fuori allora. Ma se è che è handicappato, non ve l'aveva detto. Boh. Riprendi a te, mi prendo una sigaretta. Ehi. Luia, esci da profitto. Fino a mettere l'acqua, 2 secondi sono qua a radio di nuovo. Io dico, cioè non hai da fastidio. A meno che lo attivi non lo senti più. Quello sì. Però, qua. Cago su bimbino, non ho compreso. Non per lui, questo non è una vendita, è un massimo, hai visto. Non può essere una vendita. Lui, ma forse un ribale di piazzi si può pure piccare, se non guarda con un cavolo di baracca si impicca. A guardare con i fiori, sì. Yeah. gente. perché ti ho fatto. Bella canzone, lo so troppo, eh. Anche di pomeriggio non c'è problema, e poi sono libero domenica e lunedì. Quindi, se voi, questi sono i miei turni. Sì, già. Sì, già, c'è problema, sarà. Sì, già. Va bene, noi lo vediamo un po'. Aspetta, ma sono tocca anche il computer. Cappa, lui va a provare un po' come cazzo funziona questa radio. Tu mi devo prendere l'altra, già. Se ci riesco, devo prendere l'altra. Ma tu mi dici, onnaggio, cosa me la putti? Allora, vedimmi. Ma voglio quella per pulire, cioè, anche se mi servono soldi qua. Però mi dispiace tanto, veramente. Se riesco a dare questo qua e prendere l'altra, là, sì. Quello, dove va bene, così è. Sì, dual band, quello è un big band, come quello, come uno di quelli che c'ho io, dual band, è bella pure meglio, hai due frequenze, puoi fare VV o U o viceversa, non c'è problema, avanti Antonio, ma e poi Domenico è passato da qua sul 10, no? O è partito diretto? No, è partito diretto, no, non è tratto. Almeno io non l'ho sentito. No, io ho messo lo squelch e sono andato a cenare. Poi sono venuto qua e eri appena arrivato tu. Ho sentito con Daniele, che era un capannone, stavano vedendo quella radio e basta. Poi non l'ho sentito più. E anche lo stesso. Provato a mettere qualcosa sotto i denti e niente, no, poi l'ho sentito, non sono rientrato, l'ho sentito forte, ma... Luca, tu hai stato solo la tagliato faceto, salendo, scendendo per casa del Ponteggio, mi ha crepato. Mi ha crepato. Ti credo. È positivo. Positivo, positivo. Mannaggia le pecorelle, cavolo. Ti pare di uscire a stare la separa, un altro Ponteggio, la buccia di gioca. Su Facebook, questo qua, chiama la polizia e dichiara, mi hanno rubato la marijuana, arrestato. Quindi ha chiamato la polizia, va bene, gli hanno rubato la marijuana, cazzo vedo coglione. È una risata. Un chiù di eroina o di cocaina ti sparisce, insomma la polizia è assicurata. Ho anche visto il virale, ma cosa ho trovato su YouTube, ha rubato una macchina, ha simulato un incidente, ma ha fracassato adesso tutto, allora poi ha chiamato la polizia e dice l'aveva tagliato la strada lì. Quello che fanno è maledizione. Ne fanno, ne fanno. C'ho fame, sonno e sette. Alleluia, magari. Alleluia. E gli devo avvisare anche a ricordare la napoletà. Questo sarà avuto in casa. Come la sera di liarmi, ragazzi. Alleluia. Sento stasera quel ragazzo che ha ammazzato i genitori, settantini, l'ha strangolato tutti e due, si è portato dentro la buccia con i bimbi e si è accuttito i canali, lunaro. Guarda che la gente sta macchiando, guarda la gente sta diventando proprio scema del tutto. Troppa accaparrarsi di zio, troppa accaparrarsi la merda, cazzo, fai un delitto così allucinante, veramente, va. Anche appunto se non venite. Per l'eredità, pagisce, validato, per carità di Dio, ma. Ma io faccio una stessa cosa, anzi, bicio, le buchi, queste persone qua, devo rimessere un'attività elettrica. Sì, ma insomma, arrivare a fare una cosa ai tuoi genitori vuol dire che ci sei proprio a morte. Questo ragazzo aveva 46 anni, ancora dipendeva dai genitori, senza lavoro, senza niente. I genitori giustamente ti assillano, esci da Teusano a fare che cosa, a realizzare, cioè c'hai 46 anni. Sai, gli vado a rubare la moglie, tutti e due si racconta a moglie. Vicini e poi di avere un bel di volta e dopo fare detto, ma non, non ha nessun significato, capite? Non è neanche furbo. Fare di turbare dove sono segnali più deboli, dove vuoi dare veramente fastidio, cattiveri in occhi. Ma ui, ui. Vabbè, che compito di Gesù, sì. Si è acceso, si è acceso. Ciao, salutare, buon abisato, tutto.